Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Lasciatemelo dire con una battuta. Se oggi l'Europa facesse un selfie, che immagine verrebbe fuori? Posso dirlo con estrema preoccupazione? Emergerebbe il volto della stanchezza, in alcuni casi della rassegnazione. Se dovessi dirla in modo sintetico, direi: l'Europa oggi mostrerebbe nel selfie il volto della noia. Questo, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, Renzi oggi, nel suo discorso all'Europarlamento, se si facesse un selfie l'Europa, cioè un autoscatto, quale sarebbe l'immagine secondo voi? Fra l'altro adesso Renzi, in una puntata speciale, in diretta, porta a porta con Vespa che lo sta intervistando, forse è il caso di sentire, dopo essere ritornato da Strasburgo, cosa dice adesso in TV. Sentiamo. Il sogno di una generazione, il sogno di un genitore che la vuole lasciare ai figli. Quando gli enti locali che non hanno i soldi devono con la TASI eccetera, allora capisce che pure gli 80 euro uno non li spende volentieri. Diamogli certezze, dategli certezze, dateci certezze e vedete che qualche euro in più esce, no? Io sono abbastanza convinto di questo ragionamento, cioè oggi la cosa importante, non sono molto convinto del legame tra il Wüster e la casa, ma questo insomma lo approfondiremo in separata sede. Parlo di tradizioni nazionali, la casa per gli italiani. Ho messo a verbale che già abbiamo litigato col capo del PPE, se poi ci mette. Insomma, siamo un po' alle battute, ecco, speravo di cogliere un punto, invece niente per il momento. Si sta parlando di casa, riproviamo a risentire se arriva il concreto. Il mio amico Tobias Spiller faccia un articolo di fondo, il tradimento italiano, che poi detto dai tedeschi significa... queste polemiche tra tedeschi e italiani per il momento ne abbiamo abbastanza, tanto poi ci torniamo sopra. Per i vostri commenti, come sempre, ci sono i messaggi al 349-238-6666 oppure c'è la pagina Facebook, sempre lì a vostra disposizione, di Effetto Notte. Fra l'altro, oggi è stato bocciato un emendamento di 35-36 senatori che volevano ristabilire il bicameralismo perfetto, cioè volevano che il Senato restasse così com'è, ma è stata bocciata questa proposta. Poi la ministra Boschi ha detto al Movimento 5 Stelle, sì, ieri è stata praticamente ripristinata l'immunità per i senatori, ma si potrebbe cambiare qualcosa, si potrebbe apportare delle modifiche nell'iter parlamentare. Insomma, un po' di confusione, no? Un po' di tira e molla. Voi come la vedete la situazione? Come vedete, se volete, il selfie eventuale dell'Europa, oppure come vedete la situazione in Italia? Vi ho già detto come intervenire, ora direi di proseguire raccontandovi in breve la giornata. L'Unione Europea, Renzi inaugura il semestre di presidenza italiana e insiste sulla crescita. Scontro poi col tedesco Webe del PPE, come stava dicendo prima, porta a porta, e sottolinea: fu la Germania a violare i limiti. E poi Sarkozy, l'ex presidente francese in stato d'accusa per corruzione di un giudice, in TV parla di strumentalizzazione politica. Riforme, bocciato un emendamento di 36 senatori che ristabiliva il bicameralismo perfetto. Immigrazione, una nuova tragedia nel canale di Sicilia. Alcuni testimoni riferiscono che ci sono almeno 80 dispersi. Le armi chimiche siriane, il trasbordo tra le navi è avvenuto oggi nel porto di Gioia Tauro in Calabria tra poche proteste, e per il ministro Galletti è stata fatta la scelta giusta. E per quanto riguarda i mondiali, oggi e domani riposo, venerdì e sabato invece i quarti, ma questo è stato un mondiale da psicoterapia e poi capiremo perché. Partiamo quindi dall'avvio del semestre di presidenza italiana dell'Italia, dal discorso di oggi tenuto al Parlamento europeo da Matteo Renzi. Sentiamone un passaggio. Esiste un grande tema economico e finanziario, ma l'Italia sostiene che la grande sfida del semestre europeo non sia soltanto quella di elencare una serie di appuntamenti, che pure ci saranno e spero vedranno la partecipazione convinta delle parlamentari e dei parlamentari europei. No, la vera grande sfida che ha di fronte a sé il nostro continente oggi è ritrovare l'anima dell'Europa, ritrovare il senso profondo del nostro stare insieme. Perché se dobbiamo unire le nostre burocrazie, vi garantisco che a noi italiani basta e avanza la nostra di burocrazia. O c'è un'identità forte, profonda da recuperare insieme, oppure perdiamo la sfida che abbiamo di fronte. Adesso facciamo un passaggio tra Renzi di qualche ora fa e Renzi di adesso, vediamo cosa sta dicendo adesso in questo momento in diretta porta a porta. Cambiamo il sistema fiscale. Ma è chiaro fiscale. Che ognuno avrà da dire, ma io vorrei questa norma qui, questa norma qua. Nella mia piccola esperienza politica, quando ho fatto il presidente della provincia ho abbassato l'IPT, quando ho fatto il sindaco ho abbassato l'IRPEF. Io le tasse le ho sempre abbassate. Senta, è vero che lei domani mattina incontra Berlusconi? Penso di sì, non è ancora ufficiale, ma penso di sì, sia Berlusconi che 5 Stelle. A che punto siete? Vedo che lei gli è arrivato l'agenzia e ha cambiato volto, ci eravamo a pagare delle tasse, tutto contento. Ho visto che lei stava portando la palla, la stava Cidenti, non è ancora ufficiale incontro Berlusconi a quest'ora, che ore sono 9:05, quando se lo diranno? Si sentono più tardi? Sentiamo. Questo è una, allora vediamo, perché domani è il giorno in cui dovremmo incontrarci sia con Forza Italia che con 5 Stelle. Domani mattina ci sentiamo e fissiamo gli appuntamenti. No, 5 Stelle però non credo Grillo. Ora ho visto Grillo che è emerso dietro con questo occhiale da sole spaziale. Ecco, no, non ha fatto un po' paura. Ma le sta simpatico Grillo? L'ho incontrato soltanto una volta, ma diciamo non c'è stata grande occasione di dialogo, perché ha parlato solo lui e poi se n'è andato. Va bene, adesso poi lasciamo perdere però le simpatie e ritorniamo invece a parlare dopo con il nostro inviato di come è andata a Strasburgo. Nel dibattito all'Europarlamento è stato piuttosto acceso, quindi è sentito anche dello scontro con il tedesco Weber, e sono intervenuti anche 5 Stelle e Lega. In cassa il sostegno degli attuali vertici di Bruxelles Matteo Renzi. Abbiamo bisogno di un'Italia forte al centro dell'Unione Europea, commenta allora il presidente della Commissione Manuel Barroso. Spazio quindi agli interventi dei gruppi parlamentari, disco verde agli impegni di Palazzo Chigi dal fronte socialista, con il capogruppo Pittella che ricorda è necessario andare oltre il dogma del rigore per non perdere un'intera generazione. Perplessità per gli impegni di Renzi nel PPE. Gli obiettivi del semestre italiano restano un mistero, spiega Toti. Forza Italia decisamente critici con il premier italiano, i cosiddetti euroscettici. Nel suo discorso non c'è stata sostanza, spiega il britannico Farage. State ballando sul Titanic, le parole rivolte dal leader della Lega Salvini ai vertici comunitari. Verrà il giorno in cui quelli che non hanno arriveranno qua a riprendersi quello che è loro. A bocciare le parole di Renzi anche il Movimento 5 Stelle, così il capogruppo a Strasburgo Ignazio Corrao. Abbiamo sentito parlare con fervore di trattati come il Fiscal Compact, ma mai in queste istituzioni si è parlato di Social Compact o di una qualche misura sociale di riequilibrio. Sostegno a Renzi dal premier britannico Cameron, che dice non vedo l'ora di lavorare con lui per portare a termine le riforme in Europa. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Per quanto riguarda invece la politica interna, sentivamo prima in anteprima, diciamo così, che domani Renzi dovrebbe incontrarsi con Berlusconi, intanto le riforme restano appunto l'obiettivo principale e sembra tenere il patto per l'appunto con Forza Italia. Bocciato l'emendamento Chiti sul Senato elettivo, ma intanto si apre un nuovo fronte con il nuovo centrodestra. Le riforme continuano, l'iter parlamentare in Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama. La norma che prevede un Senato elettivo riceve il no, malgrado la firma di 35 senatori, di cui 19 della maggioranza. Così il dissidente PD Vannino Chiti a Sky. Assolutamente, io non voglio ripristinare il bicameralismo perfetto. La questione è molto più semplice. Sulla libertà religiosa, sui diritti delle minoranze o sui diritti dell'informazione deve esserci un ruolo solo del governo e quindi della Camera in cui si esprime una maggioranza politica di governo, o sono temi bicamerali? Io penso che siano temi bicamerali. Ma intanto si apre un altro fronte, il nuovo centrodestra minaccia di non votare il disegno di legge sulle riforme se verrà mantenuta o rafforzata la competenza del futuro Senato in tema di bilancio e manovre di finanza pubblica. Risponde il ministro Maria Elena Boschi, non ci saranno aumenti di competenze, mentre riguardo alla norma sull'immunità approvata in commissione ieri, spiega, si può cambiare in aula. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Vedete, si ritorna sull'immunità, ieri è stata ripristinata o semplicemente, insomma, non è stata cancellata, e poi oggi però la ministra Boschi dice si può cambiare poi in aula. Cosa ne pensate, insomma, di questi tira e molla? C'è la pagina Facebook di Effetto Note per voi, oppure i messaggi al 349-238-6666. Vedo Renzi che continua a gesticolare, proviamo a risentire un attimo adesso in diretta. Abbiamo presentato il 30 giugno. Dice, ma potevate presentarle il 2 di giugno? Ma no, sì, ma non è abbiamo presentato il 30. Mi piacerebbe che lei mi dicesse se sulle proposte lei o chi per lei è d'accordo. No, processo civile telematico partito entro una, alla fine del pacchetto di riforme. Il processo civile, anziché durare in primo grado 3 anni, durerà un anno. Questa però, è una cosa importante. Però, ne ha parlato col sottosegretario alla giustizia Ferri proprio 2 giorni fa, parla della riforma della giustizia. Adesso però spostiamoci all'estero e andiamo in Francia. A proposito di giustizia, dopo 15 ore di interrogatorio l'ex presidente francese Sarkozy è stato rilasciato, ma è ufficialmente in stato d'accusa per aver corrotto, secondo l'accusa, un giudice. In TV ha denunciato la strumentalizzazione politica da parte della magistratura, però di questo parleremo in modo più approfondito poi nel corso di Effetto Notte questa sera. In Israele intanto la tensione è ancora alta, si è riunito in serata il gabinetto di sicurezza israeliano per discutere non solo della risposta da dare dopo l'uccisione dei 3 adolescenti israeliani, ma anche la nuova situazione di violenza a Gerusalemme Est segnata dal rapimento e assassinio di un giovane palestinese. È la terza riunione del gabinetto di sicurezza israeliano, la terza in 3 giorni. La frequenza del vertice per la sicurezza è sintomatica del crescere della tensione nel paese. Una situazione diventata ancor più allarmante dopo l'uccisione di un ragazzo palestinese di soli 17 anni a Shufat, Gerusalemme Est. Il corpo è stato rinvenuto a poche ore dai funerali dei 3 adolescenti israeliani trovati morti in Cisgiordania. Un crimine che ha scatenato in primis la rabbia del leader palestinese Abu Mazen, che ha chiesto l'immediata condanna da parte di Israele. Condanna arrivata dal premier Netanyahu in persona meno di un'ora dopo. Migliaia di palestinesi, dice il capo negoziatore Erekat, sono terrorizzati dall'esercito e da coloni armati nei distretti di Hebron e Gerusalemme Est. Per questo l'autorità nazionale palestinese chiede un'inchiesta alle Nazioni Unite sulla morte del ragazzo. Israele pagherà il prezzo dei suoi crimini, grida Hamas. Di fronte a questa uccisione il nostro popolo non resterà inerte. Stefano Totoro, Radio 24, Il Sole 24 ore. E torniamo a parlare di immigrazione, perché si contano altri dispersi rispetto a quelli di cui si parlava ieri nel canale di Sicilia. La procura di Catania indaga. Anche i morti, non solo i vivi, volevano arrivare in Europa, dice Angelino Alfano dopo il naufragio di un barcone con a bordo 101 migranti provenienti dalla Libia. Molti avevano raggiunto le coste libiche dall'Africa subsahariana, raccontano i 27 sopravvissuti. A causare l'ultimo naufragio sarebbero state le cattive condizioni del gommone, spiega la portavoce dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati, Carlotta Sami. L'unica speranza che abbiamo è che intanto che Mare Nostrum come sarà continui, ma anche che venga ampliato. Quindi che diventi veramente un'operazione europea come si è ventilato negli ultimi giorni. Secondo le stime dell'ONU sono circa 500 i migranti che hanno perso la vita dall'inizio dell'anno, 5.000 quelli soccorsi nell'ultimo fine settimana dalle navi della Marina Militare. Francesco De Remigis, Radio 24, Il Sole 24 ore. Parliamo ancora di navi, ma per occuparci delle armi chimiche siriane. È avvenuto oggi il trasbordo per le 600 tonnellate di agenti chimici dalla Arc Futura alla nave statunitense arrivata ieri nel porto calabrese di Gioia Tauro. 78 i container di sostanze pericolose che saranno poi neutralizzate a bordo della Capray, operazione che pare sia andata piuttosto liscia oggi da quello che assicurano le autorità, in particolare il ministro dell'Ambiente Galletti, che ha sottolineato che si è trattato di una scelta giusta, e la ministra degli esteri Mogherini ha commentato: l'Italia ha dato un contributo determinante al disarmo della Siria. E ora l'Italia, si tratta sugli esuberi, piloti sul piede di guerra per la mancata convocazione, il ministro Lupi ha garantito tempi stretti. Inizieremo a lavorare con responsabilità da martedì per arrivare, lo dico, entro la fine della settimana a chiudere. È il ministro dei trasporti Lupi a far capire che il tempo della trattativa sugli esuberi all'Italia stringe davvero e che in 10 giorni bisogna arrivare a una conclusione. Lo fa al termine dell'incontro avuto insieme al ministro del lavoro Poletti con i sindacati. Sul tavolo ci sono i 2.251 esuberi richiesti da Etihad per convolare a nozze con Alitalia. Governo e sindacati, che si rivedranno pure con l'azienda martedì prossimo, sono al lavoro per ridurli il più possibile, grazie anche a ricollocamenti di personale. Il boccone degli esuberi, dopo la pesante ristrutturazione del 2008, stavolta è però duro da digerire per il leader della CGIL Camusso. Abbiamo detto con nettezza: non si può avere un'altra vicenda d'Italia che si traduce in migliaia di esuberi. Punto, da lì partiamo. Per il segretario generale della UIL Angeletti però non c'è alternativa a un accordo. Secondo me esiste soprattutto la necessità, no? E sull'altare della necessità tutti devono fare un certo sforzo. Gli fa eco il numero uno della CISL, Bonanni. Questa storia che ci ha visti impegnati e attivi per fare l'accordo deve concludersi nel migliore modo. Senza un'intesa per Alitalia sarebbe il baratro, ha ribadito Lupi, secondo cui però sul piatto stavolta c'è anche un grande piano industriale di rilancio. Massimiliano Zampini, Radio 24, Il Sole 24 ore, Roma. Per chiudere i mondiali, giornata di riposo in Brasile, oggi e domani, tempo di bilanci in vista di quarti che partono venerdì. Vogliamo sentire ancora un pezzettino di Renzi, di cosa sta parlando adesso? Dove deve andare. Questo è il lavoro sul quale stiamo procedendo e stiamo facendo dei passi in avanti grandi. Si vedono risultati? No, perché nel frattempo la gente continua a salire sulle carrette e purtroppo continua a morire. In questa logica dell'Europa. Nell'indifferenza dell'Europa. In questa logica noi che cosa stiamo facendo? Primo, cerchiamo di salvare quante più persone possibile. A me potranno non votarmi la prossima volta, ma io inorridisco a pensare che quello che è accaduto anche oggi, una nave di bambini, io la lascio andare a morire 50-60 bambini. Quindi Mare Nostrum continuerà. Mare Nostrum continua. Come continua Mare Nostrum? Questo è il punto centrale. Abbiamo fatto l'accordo con i francesi e gli altri paesi, diciamo, su sponda mediterranea per un progetto che si chiama Frontex Plus, Frontex Più. Ma accanto a questo lavoro abbiamo detto alla commissione che verrà: ehi, il vostro stanziamento di bilancio sull'immigrazione è ridicolo, spendiamo più noi da soli che voi tutti insieme. Quindi guardate di, come si dice, di frugarvi un po' in tasca, e dopo essersi frugati, però mi faccio dire la cosa di principio, io trovo indegno e immorale che l'Europa, che parla sempre di questioni legate a dettagli burocratici, non abbia la forza, il coraggio e l'energia di intervenire in quello che è casa nostra, perché il Mediterraneo è casa nostra. Lei oggi ha fatto parecchie. Questo è Renzi sull'immigrazione, adesso in diretta su Rai 1. Vedo tra i vostri messaggi Beatrice che dice: nel selfie dell'Europa, l'ho fatto sentire Renzi all'inizio, ci vedrei l'urlo di Munch, insomma. E poi invece Erminio da Bergamo dice: i nomi, le fotografie dei senatori e deputati che vogliono il bicameralismo perfetto dovrebbero essere esposti su tutti i muri, voglio le foto segnaletiche addirittura, Erminio. Comunque continuate i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Nota. Intanto sentiamo gli aggiornamenti per chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Stavo leggendo ancora i vostri messaggi, dice questo ascoltatore, ascoltatrice: tutte le nazioni in crisi diminuiscono le tasse ma l'Italia no, parlatene di più perché sennò finiremo tutti male. Però poco fa Renzi in diretta su Rai 1, ve l'ho fatto sentire, ha detto: io quando ero presidente della provincia di Firenze ho abbassato le tasse, quando ero sindaco le ho abbassate, io le ho sempre abbassate. Adesso capiremo un po', anche parlato del taglio dell'IRPEF eccetera. Vi ricordo però, prima adesso di collegarci con l'Europa, diciamo come soggetto, quali sono stati i fatti principali di oggi. Partendo proprio dall'Europa, Renzi a Strasburgo ha inaugurato il semestre di presidenza italiana, ha detto: senza crescita l'Europa non ha futuro, c'è stato lo scontro col PPE, tra poco ne parliamo. Bicameralismo perfetto, bocciato l'emendamento della Fronda all'interno del PD, la ministra Boschi anche sull'immunità ha detto: si può cambiare poi in aula. Mediterraneo è una tomba d'acqua, altri 70 dispersi in un naufragio nel canale di Sicilia. Le armi chimiche che sono state trasbordate oggi nel porto di Gioia Tauro in Calabria e tutto, fanno sapere le autorità, è andato liscio. Sarkozy è stato d'accusa per corruzione di un giudice, in TV attacca i magistrati, dice: mi hanno voluto umiliare. E poi per l'Italia si tratta sugli esuberi. Europa 24 notte. E parliamo adesso allora del discorso di oggi di Renzi a Strasburgo, di cosa è successo, anche di questa tensione sempre con il fronte tedesco, non esattamente con la Merkel, è vero Sergio Nava, direttamente da Strasburgo, Sergio? Sì, direttamente dal centro di Strasburgo, ecco. La Place Kléber stavolta, ho voluto variare un attimo. Non bravo, sentiamo la tua voce con un'inclinazione diversa infatti, esatto. Più centrale. Diciamo che è stata un'introduzione di semestre abbastanza particolare, devo dire. In questo Renzi ha ricalcato paradossalmente Berlusconi, perché Berlusconi anche lui si scontrò, molto curioso notarlo, con un capogruppo parlamentare tedesco, era Martin Schulz, gli diede del capò. Stavolta è stato un po' più tra virgolette gentile, perché ha tenuto un atteggiamento più istituzionale, se vogliamo, rispetto a quello che era successo 11 anni fa. I partiti, come dicevo, si sono praticamente invertite, perché c'è stato appunto un primo ministro socialista, Renzi, che ha avuto uno scontro con un capogruppo, stavolta del conservatore. E il tema è stato ancora quello della flessibilità, sostanzialmente, perché quello che che Leva ha detto, ha ribadito, perché già lo diceva da alcuni giorni, i paesi devono fare le riforme pur in un regime, se vogliamo, di austerità. Questo sostanzialmente è il messaggio. Ha detto Portogallo e Irlanda hanno fatto così, non vediamo perché, e sono piccoli paesi, non hanno forza negoziale come c'era l'Italia, non capiamo perché quando arrivano i grandi paesi poi chiedono più margini. E Renzi giustamente ha ricordato che la Germania con la Francia sforarono il patto di stabilità nel 2003, e da lì, ha ricordato anche, cominciarono le riforme. Sentiamo questo passaggio. Se invece, caro Presidente, il capogruppo Weber parlava a nome della Germania, vorrei segnalare a lei, che conosce molto meglio di me per la sua esperienza e per la sua appartenenza, che proprio in questa sala, durante la scorsa presidenza dell'Italia alla guida del semestre europeo, ci fu un paese a cui non fu concessa la flessibilità, fu concesso di violare i limiti. Quel paese era la Germania, con il processo di riforme che ha consentito alla Germania oggi di essere un paese che cresce. Insomma, diciamo, almeno così a parole gliela cantate, si può dire, Sergio Nava. Mm? Non fa una grinta il discorso di Renzi, su questo bisogna dirlo, si potrebbe dire da che pulpito, ed è anche corretto dire che alla fine la Germania riforme le fece, cioè la Germania sforò, ma allo stesso tempo mise in moto un'agenda, l'agenda 2010 di Schröder, che ha portato a dei risultati importanti, perché ha modernizzato la struttura produttiva del paese e relazioni anche sul lavoro. Renzi, dicevo, è stato poco istituzionale anche nel fatto che poi, diciamo, per esigenze televisive, lo sentivo poco fa Porta a Porta, ha mollato tutto e ha preso l'aereo per Roma. Devo dire, in questo forse poteva concedersi, magari non tanto i giornalisti italiani che lo seguono sempre, ma quantomeno i giornalisti degli altri paesi, perché questo è anche il semestre di presidenza italiano dell'Europa e non solo dell'Italia, e questo è stato probabilmente un piccolo sgarbo istituzionale. Ci teneva a essere presente da Vespa, evidentemente ha privilegiato Vespa rispetto ai giornalisti. Sì, è un'udienza nazionale, non dimentichiamo, non è un'udienza europea. Sì, bisogna parlare di Europa in Italia, c'è molto bisogno, però bisogna anche forse far conoscere. E su questo Renzi, a mio parere, è stato molto latitante in questo. Non ha spiegato bene, ora non so se sto dicendo Porta a Porta perché sono in Francia, però... È appena finito Porta a Porta, ecco. Se no ti facevo sentire qualcos'altro. Comunque vedo che ha detto, tra le varie cose, noi in Europa non siamo i salvati, siamo i salvatori. Allora, ti farei sentire anche un altro passaggio dove lui parla di coraggio e di orgoglio. L'Italia non viene qui per chiedere all'Europa i cambiamenti che lei non è in grado di fare. L'Italia viene qui a dire che lei per prima ha voglia di cambiare, che lei crede nelle istituzioni europee, e viene per dirlo con la convinzione e la determinazione, vorrei dire il coraggio e l'orgoglio di chi sa di rappresentare un grande paese che quando entra nelle istituzioni europee non va per chiedere ma va per dare. Capito, va per dare, Sergio. Quindi evidentemente ci sarà il contributo. Questi sono temi, in realtà, ricordiamo, cioè a parte l'immagine interessante del selfie e la generazione Telemaco, che è un po' una rilettura in chiave antica della generazione Erasmus, sì. Renzi ha ribadito concetti che sta dicendo da diversi mesi: la crescita, l'Italia che vuole giocare un ruolo attivo e non va col cappello in mano. Questi sono quello che si sarebbe aspettato qui a Strasburgo, poi appunto non so cosa abbia detto a Roma, ma quello ci sarebbe aspettato era un po' più di concretezza su come raggiungere quegli obiettivi. Parla di crescita, sì, ok, però qual è l'obiettivo su scala europea, non solo su scala italiana? Parla di immigrazione, quali sono le sue proposte del concreto? Cioè, ci sono 6 mesi, tra l'altro molto corti, davanti, perché c'è l'estate di mezzo, poi c'è Natale, ci sono tutti i rinnovi delle cariche istituzionali, ci sono gli obiettivi macro, li abbiamo chiari, però forse un po' più di concretezza, e questo gli è stato molto rimproverato poi nelle repliche degli eurodeputati, un po' di concretezza forse sarebbe stata importante. Apprezzata. È stato molto molto vago, ha volato molto molto alto, ha arricchito l'elogio di citazioni di classici, di latini e greci, di Rinascimento fiorentino, però stringi non ha dettagliato il suo programma. E allora andiamo ancora con le citazioni. Sentiamo. Sergio, andiamo con le citazioni. E c'è anche, lasciatemelo dire, una generazione nuova. Se dovessi concludere con un riferimento da cui sono partito nel rapporto tra Grecia e Italia, direi che non è che la generazione Telemaco. Noi abbiamo fatto c'è una epopea bellissima nella letteratura su Ulisse, perché Ulisse è il grande personaggio che affascina e emoziona, e poi perché Ulisse ha animato non soltanto la letteratura antica, ma anche da Dante Alighieri a Joyce il pensiero e la letteratura di tante parti del nostro continente. Nessuno parla di Telemaco, però Telemaco, se ci pensate, ha un compito che è ancora più difficile. Non a caso all'inizio dell'Odissea Atena lo chiama e gli dice: non potrai mica pensare di restare qui ad attendere. Anche la nostra generazione, quelli che sono nati, quelli che non avevano neanche 18 anni quando c'era Maastricht, io non ero neanche maggiorenne quando c'è stato Maastricht, la nostra generazione ha il dovere di riscoprirsi Telemaco, ha il dovere di meritare l'eredità. Noi non vediamo il grande frutto dei nostri padri come un dono dato per sempre, ma come una conquista da rinnovare giorno dopo giorno. Quindi, insomma, abbiamo il dovere di meritarci l'eredità dei padri e delle madri, direi Sergio, però non ha specificato come. L'unica cosa, dicevi, così sono serpeggiato un po' queste critiche. Non è stato molto concreto, è stato più volte rinfacciato da deputati vari colori politici il fatto di fare discorsi molto alti, ma poi di non dire cosa, nello specifico, gli obiettivi più particolari, non generali, ma un po' più stringenti del semestre, e anche come intende arrivare, quali sono i risultati concreti che intende portare a casa, perché Renzi alterna effettivamente un po' il discorso italiano nazionale a quello europeo, cioè sulla flessibilità gioca una partita anche molto italiana, italo-francese se vogliamo, però è una parte d'Europa, non è tutta l'Europa. Sull'immigrazione invece al contrario punta a europeizzare il tema, che ora invece è molto parcellizzato a parte Frontex, chiaramente è una piccola operazione, è molto concentrato sull'Italia però. Tina che dice: a parole Renzi va forte, ma il discorso che ho apprezzato di più è stato quello di Salvini, pessima figura dei 5 Stelle. Beh, questi sono vari punti di vista naturalmente delle ascoltatrici e degli ascoltatori. Sergio, quindi aspettiamo la prossima puntata per vedere se dettaglierà di più quello che è il programma di questo semestre europeo e della crescita soprattutto. In serata, a quanto ho capito, dovrebbe poi uscire almeno su carta questo programma. È abbastanza strano anche che non sia uscito nel pomeriggio quando Renzi era qui. Purtroppo, questo forse l'abbiamo già detto nelle precedenti puntate in Europa Notte, quello che manca molto in questa presidenza è la concretezza. A differenza delle presidenze di turno normali, è arrivato in ritardo su tutto, sulla presentazione del programma, sul lancio del sito web. È una presenza organizzata, devo dire, un po' male per ora. Speriamo che a livello pratico, concreto, scenda un po' più nei dettagli, vada un po' più terra a terra e porti a casa i risultati, perché le parole sono molto belle, i discorsi alti sono straordinari a sentire, però ora servono risultati anche nelle piccole cose, serve che questa presidenza produca risultati, perché ha poco tempo per farlo, ha un grande caos politico da risolvere, in primis le nomine, e quindi questa presidenza ha già delle sfide non da poco davanti e deve accelerare. Oltre a queste sfide deve anche portare a casa i risultati, e non è facile perché è un semestre corto. Certo. Grazie Sergio Nava da Strasburgo, ciao Sergio. Grazie a voi. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi naturalmente, fino alle 22 più o meno vi accompagno come sempre ogni sera. Stavo guardando uno dei vostri messaggi, vi ricordo che potete scriverli o al 349-238-6666 SMS, oppure c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte a vostra disposizione. C'è Matteo in Company, così si firma, che scrive: qui con un paio di amici tutti più giovani di Renzi, tutti europeisti, tutti ben addentro per estrazione e professione alla postmodernità, tutti con un brivido lungo la schiena nel sentirlo parlare super giovane. Se ci facessimo un autoscopo a proposito del selfie che proponeva Renzi, che ho fatto sentire all'inizio, ci vedreste come l'Europa secondo Renzi, due punti, un po' annoiati, questa volta dalla velocità virtuale, questa sì. E poi ringrazio per il complimento. Ce ne sono molti altri che leggerò dopo, ma adesso vi ricordo quali sono, abbiamo fatto la pausa, quali sono state le notizie di oggi. L'Unione Europea, Renzi inaugura il semestre di presidenza italiana e insiste sulla crescita. E poi c'è stato questo scontro col tedesco Weber del PPE, del Partito Popolare Europeo, e sottolinea fu la Germania a poter violare i limiti. Sarkozy, l'ex presidente francese, è in stato d'accusa ufficialmente per corruzione di un giudice. Poi in TV ha parlato di strumentalizzazione politica questa sera. Riforme, bocciato un emendamento di 36 senatori che ristabilisce il bicameralismo perfetto, anche se Chiti del PD dice che non è proprio esattamente questo. Immigrazione, nuova tragedia nel canale di Sicilia. Purtroppo alcuni testimoni riferiscono che ci sarebbero almeno 80 dispersi. Le armi chimiche siriane, oggi nel porto calabrese di Gioia Tauro c'è stato il trasbordo. E poi vedevo anche questa notizia di una ricerca della Doxa, anche con Intesa San Paolo e il Centro Einaudi. In Italia, inversione di rotta per il risparmio, c'è una ripresa in arrivo, gli italiani tornano a risparmiare nonostante la coda della crisi, le famiglie ricominciano a mettere da parte i soldi, la preoccupazione maggiore resta il futuro dei figli e naturalmente come dare torto. Adesso però torniamo a parlare, mi dicevano i titoli, dell'emergenza immigrazione. Poco fa Francesco De Remigis ha intervistato la portavoce dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per il Sud Europa, che è Carlotta Sami, a proposito appunto di questa emergenza che sembra proprio non avere fine. L'unica speranza che abbiamo è che intanto che Mare Nostrum come sarà continui, ma anche che venga ampliato, quindi che diventi veramente un'operazione europea come si è ventilato negli ultimi giorni. Evidentemente c'è un bisogno fortissimo, perché come vede, nonostante questa operazione, ci sono veramente le condizioni in cui vengono fatti partire queste persone, sono talmente disastrose e inumane che continueremo ad avere morti purtroppo. E l'altro aspetto sicuramente che accentua, diciamo, la gravità di tutto questo è la situazione che c'è in Libia, che chiaramente in Libia non solo non c'è un controllo, ma anzi, cioè, il paese è in mano a questi clan a cui sono collegati, diciamo, poi tutti questi network, diciamo, legati anche al traffico di esseri umani, per cui questa situazione qui viene aggravata anche molto da questo aspetto, viene resa anche più grave per le condizioni in cui vengono trattati i rifugiati, i migranti anche in Libia da queste persone, perché comunque arrivano sulle barche dopo che già sono stati torturati, stuprati, cioè arrivano in condizioni, la situazione è veramente, ha raggiunto dei livelli di disumanità inimmaginabili. E questa purtroppo è la situazione, abbiamo sentito anche prima, abbiamo fatto sentire Renzi in diretta a Porta su Rai 1, che cosa diceva sulla questione dell'immigrazione, anche se appunto se l'Europa non interviene, non si trovano delle iniziative, delle misure più efficaci, è difficile che se ne possa uscire, forse è dire fin troppo, però almeno arginare, aiutare in modo condiviso. Adesso invece parliamo della politica più interna, diciamo una certa confusione che mi pare regni nel Parlamento italiano, perché vi dicevo oggi, naturalmente le riforme sono sempre in primo piano, la ministra Boschi, a proposito della questione immunità che ieri, diciamo, è stata tra virgolette ripristinata, cioè non si è cancellata per il Senato, il Movimento 5 Stelle continua a essere agguerrito contro l'immunità, e la ministra Boschi ha detto: ma allora guardate, nell'iter parlamentare si potrebbero apporre delle modifiche, quindi insomma non si capisce. Prima c'è stato ieri un accordo piuttosto trasversale, ieri approvato in commissione al Senato, e quindi non si capisce adesso perché bisogna fare un passo indietro, un passo avanti. E poi l'altra cosa è che oggi è stato bocciato un emendamento, quindi una proposta di un esponente del PD, Chiti, insieme però ad altri 35 senatori, per ristabilire il bicameralismo perfetto. Chiti ha detto: no, ma in realtà non intendevo dire bicameralismo perfetto, cioè Camera e Senato così come sono stati finora, ma almeno ridare certe competenze legislative al Senato. Insomma, chiedo lumi a Michele Ainis, che saluto. Ciao Michele. Eccoci, ciao Roberto. Costituzionalista, docente di diritto pubblico all'Università di Roma 3, editorialista del Corriere della Sera. Michele, mi sembra che regni un po' di tentennamento, o forse un po' di, anche un pochino di ipocrisia, forse, non lo so, meglio che ognuno dica quali sono le sue intenzioni, è inutile dire ma ripristiniamola, però poi ci possono essere delle modifiche, vediamo. Che dici? Intanto, secondo te è una cosa giusta? Se ne è discusso molto negli ultimi giorni, però vedo che gli ascoltatori continuano a essere piuttosto, non tutti, ma insomma contrari e contrariati rispetto all'immunità, che poi non è l'immunità dal procedere processualmente eccetera, ma dall'arresto cautelare, no? Sì, perché se ci fosse una sentenza definitiva di condanna, come dimostra poi da ultimo il caso dell'Utri, insomma, allora, peraltro lui non era più parlamentare, ma insomma, il nuovo articolo 68, nuovo nel senso che venne modificato nel 1993, quando soffiava il vento di Tangentopoli, ha ridotto le immunità così come i costituenti le avevano concepite nel 1947. Prima, in passato, nella Costituzione originaria, era previsto una autorizzazione della Camera di appartenenza addirittura per iniziare un processo nei confronti di un parlamentare e comunque per arrestarlo, anche in seguito a una sentenza ormai definitiva. Dopo il 1993 questo è caduto, è rimasta una immunità parziale. Questa immunità parziale però vedo che provoca molti mal di pancia, in particolare per quanto riguarda la sua estensione al Senato. Che cosa possiamo dire? In premessa io direi che rischia di essere un velo questa storia dell'immunità che ci nasconde la sostanza. La sostanza è stiamo cercando di riorganizzare il processo decisionale, la macchina legislativa, la stabilità dei governi, che naturalmente diventerebbero meno ballerini quando la fiducia se la devono guadagnare presso una sola Camera, quella dei deputati. E invece insomma, si parla solo di questo, dell'immunità. Probabilmente il punto di caduta di tutto questo ping pong, no? Come dicevi tu, prima c'era, poi scompare, poi rinasce, insomma, l'ombrello per i senatori, potrebbe essere la sola insindacabilità. Questo significa che i senatori rimarrebbero insindacabili per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni in Senato. Ora, questo a me parrebbe minimo sindacale, l'insindacabilità, un gioco di parole, perché tutela la libertà dei dibattiti in Parlamento, peraltro gli stessi consiglieri regionali ce l'hanno. Ma non è già scontata, scusa Michele Ainis, l'insindacabilità, cioè non è un qualcosa che già esiste, nel senso che non si può vietare a un senatore di esporre le proprie opinioni, di dare il proprio voto? L'insindacabilità significa che se un senatore durante un discorso dice Michele Ainis è un somaro, magari avrà pure ragione. Ha torto in modo più assoluto, questo è eclatante, è acclarato. Ma? Ecco, allora Michele Ainis non può querelarlo, ma anche se c'è una immunità giuridica totale, quindi se io rivelo i piani della nuova autovettura che la Fiat metterà in commercio fra due mesi e lo dico durante un discorso in aula, la Fiat non mi potrà chiedere i danni, quindi anche al punto di vista civile. Quindi basterebbe quella, l'insindacabilità, tu dici? Potrebbe essere una proposta. Però se si toglie qualunque scudo ai senatori, resterebbero anche sindacabili per quello che dicono e per come votano. E questo, francamente, io capisco che c'è un sentimento così di opposizione a qualunque privilegio, poi queste sono prerogative, non sono privilegi, però almeno quella la terrei. Ma la proposta di te, l'hai fatta ufficialmente questa dell'insindacabilità? Io ho solo un potere di critica legislativa, di iniziativa no, non posso scrivere legge. Però, visto che scrivi anche oggi, adesso non ho letto tutto il tuo editoriale su Quello della Sera, ma scrivilo appena possibile, potrebbe essere una buona idea questa, mettere insieme magari tutti, poi chissà troverebbero un altro modo per far rientrare dalla finestra, perché mi sembra che tutti dicono no, ma io ne posso fare a meno, poi però il consenso è largo sulla permanenza di questa prerogativa. Michele Ainis, io intanto ti ringrazio e ti sollecito a fare più efficacemente questa proposta. proposte, allora. E io, come sempre, obbedisco alle ordini. Grazie. Ciao Michele. Grazie, buona continuazione. Ciao. Buona serata. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Scrive Vittorio sulla pagina Facebook di Effetto Notte: cambiare per non cambiare, il rischio è concreto per tutti. A proposito di queste riforme, in particolare dell'immunità, vi ricordo brevissimamente tra le notizie principali il discorso di Renzi oggi a Strasburgo, il Parlamento europeo, per inaugurare il semestre italiano di presidenza. Senza crescita l'Europa non ha futuro, dice. C'è stato scontro con Weber del Partito Popolare. E poi il Mediterraneo diventa una tomba d'acqua perché ci sono altri 70 dispersi in un naufragio. A Pozzallo sono arrivati 45 corpi recuperati nel peschereccio della morte. Per i mondiali, giornate di riposo, ma poi ne parleremo tra poco di alcune curiosità. E vi dicevo di questa ripresa in arrivo per gli italiani che tornano a risparmiare, secondo una ricerca Doxa, Intesa San Paolo e Centro Einaudi. Un'altra notizia importante è l'OMS è stato di accusa ufficiale per l'ex presidente francese Sarkozy. Stasera in televisione è intervenuto, la televisione francese, e ha attaccato la magistratura. Je suis profondément choqué de ce qui s'est passé. Sono profondamente scioccato per quello che è successo. Non chiedo nessun privilegio. E se ho sbagliato? J'en assumerai toutes les conséquences. Io me ne assumo tutte le conseguenze. Mais enfin, j'en appelle alla conscience de chacun de nos compatriotes. Infine mi appello alla coscienza di ciascun compatriota. Que je sois écouté dans mes conversations les plus intimes. Dice, giusto secondo voi che io sia stato ascoltato nelle conversazioni più intime? Marco Mussanè è giusto, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi. Ciao Marco. Buonasera a voi. Ma è giusto, sicuramente la questione della legittimità delle intercettazioni sarà al centro della battaglia giudiziaria di questa vicenda, che dal punto di vista istruttorio durerà almeno un anno e mezzo prima della decisione finale dei magistrati, perché sono in molti a ritenere che il fatto di intercettare i dialoghi tra una persona sospettata di aver commesso un reato e il suo avvocato sono effettivamente discutibili. Così come alcuni ritengono che sia discutibile la decisione di procedere allo stato di fermo per l'interrogatorio, un fermo durato 15 ore. Sicuramente non c'è dubbio che c'è un atteggiamento, diciamo, di particolare attenzione da parte della magistratura nei confronti di Sarkozy. Su questo non c'è alcun dubbio. Lui stesso ha ricordato che in questo momento c'è una ventina di magistrati che si occupano a vario titolo di lui, coinvolto in 7 diverse inchieste. E quindi sicuramente c'è un'attenzione particolare. Ecco, se poi si tratti effettivamente di accanimento, di persecuzione, di utilizzo strumentale ai fini politici della giustizia, come lui ritiene, e questo poi lo si vedrà sulla base dell'esito delle inchieste. Direi che per il momento non possiamo che limitarci a dire che spetta alla magistratura, alla giustizia, indagare e aspettare le conclusioni. Va detto che l'unica inchiesta che per ora si è conclusa nei confronti di Sarkozy, che riguarda il sospetto di circonvenzione di incapace nei confronti dell'anziana miliardaria Bettencourt, proprietaria dell'Oreal, per i finanziamenti alla campagna del 2007, si è chiusa effettivamente con un luogo a procedere. Quindi insomma sarà comunque una battaglia dura, lunga, molto molto pesante da tutte e due da tutte tra due l'altro parti. Ieri ci dicevi, Marco Mussanè, per chiudere, che nel suo partito del centro non sono stati molto solidali, perché c'è una battaglia anche interna per la leadership. Nel partito di centrodestra, l'UMP, c'è una battaglia feroce in corso, in particolare tra l'ex premier proprio di Sarkozy, che è François Fillon, che aspira a essere candidato del centrodestra alle presidenziali del 2017, che certo non si straccia essere resti per difendere Sarkozy. Qui vuol vedere come va a finire. La forza vera di Sarkozy è nel, diciamo, nel popolo del centrodestra, nell'elettorato del centrodestra, che disorientato dalla situazione in cui si trova, drammatica, in cui si trova il partito, vede lui in lui e continua a vedere in lui il possibile salvatore della patria. Ecco, quindi la decisione sua di andare allo scontro con la magistratura, o almeno una parte della magistratura, è di vendersi all'opinione pubblica con l'immagine del perseguitato e della vittima sacrificale, certo è una cosa che dal punto di vista politico può pagare, a meno che nel frattempo non arrivi una condanna. E certo, chiudo con questo messaggio di Clotilde che dice: come mai Sarko mi fa venire in mente un politico, si fa per dire italiano, sarò maligna, insomma, vabbè, lo fa venire in mente, poi vediamo come vanno le varie vicende, la persecuzione, anche se insomma il parallelo tra Berlusconi e Sarkozy, insomma, è un po' difficile, sono questioni diverse, giusto per una battuta, un giochino dei giornali. Grazie Marco Mussane da Parigi. Grazie a voi. Ciao Marco. Ciao. E andiamo di mondiale adesso, anche se oggi si riposa, vero Giovanni Capuano? Ciao Giovanni. Si riposa oggi e domani finalmente, visti gli orari. Oggi e domani, però ci sono tante cose da dire, a parte l'enfasi che c'è stata anche sulle ultime partite. Mi hai mandato questo file di questo telecronista argentino, sentiamo l'entusiasmo ieri e le imprecazioni anche di questo telecronista della partita Argentina-Svizzera. Traduci però Giovanni, scusa, non morimo a casa, non moriamo qui, che diceva Pelandones? Lui è Alejandro Fantino, del radiocronista della Red, ed è un idolo, un mito in Argentina. Questi sono gli ultimi istanti del tempo supplementare contro la Svizzera, praticamente diciamo il palo di Zemaili, quello che oggi molti giornali dicono essere stato salvato come gol direttamente da Papa Francesco, e poi il fischio finale. C'è questo radiocronista che, se ovviamente esulta, dice: vi abbiamo battuto svizzeri. E poi c'è questo bellissimo coro che comincia a cantare, dedicato ai brasiliani. C'è un'altra parte di questa radiocronaca fantastica in cui dice: ehi brasileños, nos tenemos el culo del campeón, perché questo poi è grande mondiale psicologico che si sta giocando. C'è quello tecnico, ci sono 4 europee, 4 americane da venerdì, insomma, ci saranno queste sfide. E ma c'è anche molta psicoterapia, cioè bisogno, no? Dicevi. Ma sì, perché c'è questo grande sogno degli argentini di andare ad alzare la coppa al Maracanã di Rio de Janeiro in faccia ai brasiliani, e c'è questo grande incubo dei brasiliani di vedersi ripetere quello che è già accaduto nel 1950 al Maracanazo, cioè perdere in casa un mondiale. Ed è una cosa molto forte questa che si sta vivendo, anche perché gli argentini sono molto presenti in Brasile in questo mese di mondiali. L'Argentina si sposta seguita da 40-50 mila tifosi tutte le volte che gioca. I brasiliani stanno soffrendo questa pressione. Da oggi la nazionale brasiliana lavora con uno psicologo, con uno staff di psicologi, perché ha molto colpito tutte quelle lacrime prima addirittura dei calci di rigore contro il Cile. Evidentemente Brasile che non regge la pressione fortissima che ha sulle spalle, che non è solo una pressione sportiva, cioè quella di dover vincere in casa, che è il sogno di tutti i calciatori, ma anche con tutte le polemiche che ci sono state, gli scontri, devono vincere per forza, perché non oso immaginare cosa potrebbe succedere. Ci ricordi Giovanni Capuano, poi tanto ci sentiamo anche domani, le partite quindi prossime in proprio pochi ma secondi? Sì, venerdì e sabato, venerdì Germania-Francia che è il derby europeo, e poi Brasile-Colombia che è attesissimo, e poi sabato Argentina-Belgio che è la rivincita della semifinale dell'86 e Olanda-Costa Rica. Bene, ci aggiorneremo su quello, magari li vedremo insieme. Grazie Giovanni Capuano, ciao, a presto, e noi tra poco.